24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la crisi greca con gli scontri di piazza ad Atene e l'attesa di Bruxelles per il varo della nuova manovra di austerità. Intanto il premier cinese Wen Jiabao tende la mano all'euro. L'Europa lancia un nuovo monito all'Italia sulla crisi rifiuti. Il rischio di infrazione ora è forte. Sempre Bruxelles rinnova l'invito a Italia e Francia affinché mostrino una volontà politica chiara sulla Torino-Lione. Ed Eurostat rivela la Danimarca è il paese europeo con il livello più alto dei prezzi al consumo, ma proprio in Scandinavia, aggiunge l'Ocse, si vive meglio in Europa. In apertura la crisi greca, come dicevamo, con il governo ellenico che si prepara a vivere ore decisive per l'approvazione della manovra di austerità, l'Europa che preme per il varo e le manifestazioni di piazza contro l'esecutivo. Papandreou, sentiamo. Le prossime ore saranno decisive per l'Eurozona, ha detto il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy da Bruxelles. Il Parlamento greco deve votare il pacchetto di misure di austerità per 28 miliardi di euro, mentre davanti al Parlamento a Piazza Sintagma ci sono stati scontri violenti tra polizia e anarchici con numerosi feriti. La tensione è alta, Papandreou ha 155 voti su 300, ma 4 deputati si sono sfilati dalla maggioranza, così l'esito del voto finale resta molto incerto e con esso la tranche da 12 miliardi di euro, senza la quale a metà luglio c'è la bancarotta. Rehn da Bruxelles ha escluso che ci possa essere un piano B. Vittorio Garold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo fiducia nell'euro, lo ha dichiarato a Berlino il premier cinese Wen Jiabao durante una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel. La Cina è pronta a investire in alcuni dei paesi più deboli dell'eurozona perché è importante per l'equilibrio mondiale stabilizzare e sviluppare l'economia dell'Unione Europea, ha sottolineato il premier. Sentiamo ora il commento di Alberto Forchielli. I cinesi ovviamente vogliono spostarsi sull'euro perché temono la debolezza del dollaro e con la caduta della domanda dei consumatori americani il mercato europeo è di gran lunga il principale mercato di esportazione. Nei confronti dell'euro il renminbi non si è rivalutato, per cui sull'Europa i cinesi riescono a essere ancora competitivi e l'unico modo per rimanere competitivi è sostenere l'euro. Per sostenere l'euro bisogna sostenere il debito europeo, quindi questa affermazione di Wen Jiabao è un'affermazione molto importante, però è la continuità delle cose che abbiamo visto succedere. Avevamo detto che il debito italiano in mano ai cinesi era al 13%, che il debito europeo complessivo è arrivato al 10%, quindi questa ultima affermazione clarificatoria è il sigillo finale a un percorso che in parte se l'ha visto nascere. E ora andiamo a vedere come hanno reagito i mercati, la borsa. Le borse europee recuperano terreno grazie all'ottimo andamento del settore auto e di quello bancario. Ieri Parigi ha guadagnato l'1,4%, Francoforte lo 0,88% e Londra lo 0,78%. A Piazza Affari il FTSE MIB ha invece messo a segno un più 0,82% e lo share un più 0,76%. E sul listino milanesi in evidenza le principali banche dopo le voci sul buon esito degli stress test europei. Unicredit e Intesa San Paolo salgono così rispettivamente del 2,2% e del 2%. La migliore del listino meneghino tuttavia è Campari, più 4,7%, che tocca il massimo storico a 5,65 euro, coronando un rally che da metà marzo ha visto il titolo guadagnare il 22%. Infine Fondiaria Sai, sotto aumento di capitale da 450 milioni di euro. Il titolo oggi è rimbalzato del 4,36% dopo i ripetuti crolli delle ultime sedute. Ci occondina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra promesse, proteste e rischi di infrazione comunitaria, in Campania continua l'emergenza rifiuti. Dopo l'ennesima notte di roghi su di una Napoli, dove questa mattina giacevano ancora 1430 tonnellate di rifiuti, incombe ora anche lo spettro di un'infrazione comunitaria. Era già avvenuto nel 2007 che la Commissione europea aprisse una procedura ai danni dell'Italia per l'emergenza rifiuti e oggi, in un comunicato stampa, il commissario dell'ambiente Janez Potocnik si è detto preoccupato per i pochi progressi fatti da allora. E anche se il commissario ha detto di apprezzare l'impegno del nuovo sindaco, il rischio che arrivino pesanti sanzioni pecuniarie c'è. Luigi De Magistris però rimane ottimista e dopo aver annunciato un aumento di capitale per l'azienda Servizi di Igiene Ambientale Napoli per un ammontare totale di 43 milioni di euro ha ribadito questa mattina a Radio 24 i suoi progetti. Dice, 70% noi lo raggiungiamo sicuro, non forse. Ah, sicuro. E tutti gli sforzi sono indirizzati in quella direzione per raggiungere il porta a porta in tutta la città. Intanto nel pomeriggio immondizie e proteste sono arrivate fino a Roma, dove un centinaio di cittadini napoletani ha manifestato davanti a Montecitorio. Cori e cartelli soprattutto contro la Lega, che si oppone ad un provvedimento governativo che autorizzi l'invio dei rifiuti in altre regioni senza accordi specifici. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea chiede che entro il 30 giugno Italia e Francia mostrino una volontà politica chiara di procedere nella realizzazione della Torino-Lione con il rispetto delle tre condizioni già indicate: avvio dei lavori del tunnel della Maddalena, approvazione del progetto preliminare e il nuovo accordo tra Italia e Francia. Lo ha sottolineato la portavoce del commissario ai trasporti Siim Kallas. Kallas ha intanto confermato di aver ricevuto la lettera con cui il ministro dei trasporti, Altero Matteoli, ha risposto alle osservazioni formulate la scorsa settimana da Bruxelles sul rispetto degli impegni e delle scadenze relative alla TAV. Il premier ungherese Viktor Orban ha tracciato un bilancio positivo della presidenza di turno ungherese dell'Unione, che si conclude a fine giugno e passerà dall'1 luglio alla Polonia. Per esperti e opposizione il bilancio invece è piuttosto magro e fra le voci negative figurano le dure polemiche sulla legge relativa ai media, definita liberticida, e la nuova Costituzione, che ha sollevato pure forti critiche in Europa. Circa 4 miliardi e mezzo di euro tornano da Bruxelles nelle casse degli Stati membri, di cui 572 milioni vanno all'Italia. Lo prevede un provvedimento approvato dalla Commissione Bilancio dell'Europarlamento, che ha dato il proprio via libera al riutilizzo delle risorse che lo scorso anno non sono state spese oppure sono arrivate all'Unione dalle multe inflitte a chi ha violato le regole sulla concorrenza. I passeggeri aerei possono pretendere il rimborso di spese ragionevoli quando una compagnia omette di fornire assistenza e sostegno nel caso di cancellazione del volo. Lo sottolinea l'avvocato generale della Corte di Giustizia Eleanor Sharpstone, spiegando che questo rimborso non può essere detratto dalla compensazione pecuniaria che deve essere pagata in caso di cancellazione del volo. Nei prossimi mesi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si occuperà della legge 40, la legge italiana del 2004, che regola la procreazione assistita. Strasburgo ha infatti accolto il ricorso presentato da due coniugi italiani, portatori sani di fibrosi cistica, che vorrebbero selezionare gli embrioni per avere un figlio sano, una procedura già possibile in 15 paesi europei. La decisione della Corte dei Diritti dell'Uomo avrà effetti vincolanti per l'Italia, spiega Filomena Gallo, vice segretaria dell'associazione Luca Coscioni, associazione radicale che si batte per la libertà di ricerca scientifica. L'ha intervistata Maria Luisa Pezzali. Per il momento la Corte ha accolto il ricorso, che ora sarà notificato allo Stato italiano e sarà poi fissata la data di un'udienza. Ci auguriamo che venga emessa una sentenza positiva di condanna nei confronti dell'Italia. In tal caso l'Italia sarà obbligata a modificare la legge e, se dovesse rifiutarsi, sarà sottoposta a procedimento di infrazione. E sarà stabilita anche, nel caso di accoglimento con sentenza positiva, una forma di risarcimento del danno subito alle coppie fertili che fino ad oggi non hanno potuto accedere a queste tecniche. E la Danimarca, seguita dalla Finlandia, è il paese europeo con il più alto livello dei prezzi al consumo. Ma anche l'Italia si piazza sopra la media comunitaria, al pari di Germania, ma sotto Lussemburgo, Svezia, Irlanda, Belgio, Francia, Austria e Olanda. Lo rivela Eurostat. L'OCSE intanto ha pubblicato l'indice del benessere dei paesi sviluppati. In Europa, e non è una sorpresa, vincono i paesi scandinavi. Si chiama Better Life Initiative Index ed è volto a valutare il grado di soddisfazione della vita dei cittadini. Tra i paesi europei, usando 11 indicatori come reddito, istruzione e salute, risultano essere gli svedesi i più appagati. Seguono norvegesi, danesi, svizzeri, finlandesi e olandesi. Ma non si è sempre detto che ciò che rende felice una persona può renderne infelice un'altra? L'OCSE ha deciso di prenderne atto e per il futuro adotterà un nuovo strumento di valutazione chiamato Your Better Life Index, che consente di vedere come i paesi si trovano secondo l'importanza che le persone danno a istruzione, ambiente, salute e via dicendo. E l'Italia? È a metà classifica, con un 54% della popolazione che risulta felice della propria vita. Uscendo dal vecchio continente, i più soddisfatti sono australiani, neozelandesi e canadesi. Giuseppe Asta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la riunione della Commissione europea che approverà la proposta per il quadro finanziario pluriennale nel periodo 2014-2020. La proposta riguarderà la totalità delle politiche finanziate dall'Unione, agricoltura, politiche di coesione, ricerca e sviluppo. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Mauro De Angeli. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa.